Falco e il Gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano. Io sono così e ho voglia di volare, mentre dico che ti avrò, che ti avrò. Ormai lo sapete, noi cerchiamo nelle nostre storie il colpo d'ala, quello che caratterizza le scelte dei protagonisti, li porta a volare in alto, cambia la vita. Beh, il colpo d'ala di oggi è uno di quelli veramente potenti, perché è anche un colpo di genio, di fiuto imprenditoriale, di inventiva, ma anche un colpo di anticonformismo, di scelte che escono dal normale tracciato, come spesso capita a quelli che vincono nella vita. Oggi abbiamo non una ma due protagoniste, sono due sorelle della Milano Bene, di una famiglia della patinata borghesia milanese degli anni 60, due sorelle che scelgono di cantare fuori dal coro, di non avviarsi verso la normale carriera destinata a tutte le ragazze come loro, trovare il marito ricco, queste cose qua. Due sorelle che fanno una scelta che le consegna direttamente alla storia. Prima di dirvi i loro nomi, ascoltate questo. Diabolik, questa era la sigla della trasposizione televisiva del cartone animato. Diabolik, prima di tutto, è un famosissimo fumetto, lo conosciamo tutti. Lui è un ladro, ma specialmente all'inizio non è un ladro gentiluomo, è un criminale che non esita a commettere azioni terribili per raggiungere i suoi scopi, per riuscire a rubare l'oggetto del suo desiderio, in genere diamanti dal valore inestimabile. E Diabolik, attenzione, non è Robin Hood, non è uno che ruba i ricchi per dare ai poveri, ruba i ricchi per donare alle ragazze, per cercare di conquistarle. È un delinquente efferato, sicuramente un uomo di grande fascino, ma ovviamente anche un personaggio discutibile. Bene, Diabolik è il frutto della fantasia di due signorine di buona famiglia, due ragazze che a vederle, belle, alte, magre, bionde, con gli occhi azzurri, farebbero pensare a tutto tranne a due persone che si sono inventate rapine, fughe rocambolesche, inseguimenti con la polizia. Le protagoniste della nostra puntata sono le sorelle Angela e Luciana Giussani, le mamme di Diabolik. Ascoltiamo la voce di Luciana. E dunque, mia sorella nel 62 è andata a rileggersi un Fantomas, no, a parte il fatto che si è divertita moltissimo, no, a rileggerselo, Arsène Lupin anche, no? E poi, ispirandosi a questi due personaggi, no, ha creato questo Diabolik. E le dirò che è anche meno cattivo di Fantomas, perché Fantomas era un grosso sadico, Diabolik no, insomma. Quindi la sorella Angela nel 62 legge un fumetto di Fantomas, poi viene colpita anche da Arsenio Lupin, però insomma da questo a creare dal nulla un personaggio come Diabolik il passo non è così breve, e soprattutto far diventare Diabolik un successo editoriale mondiale. Quindi è il caso di scoprire il mistero delle sorelle Giussani, indagare come farebbe Ginko, l'acerrimo rivale di Diabolik, l'ispettore che viene sempre battuto. Insomma, cerchiamo di capire il segreto di queste due diaboliche sorelle. All the sisters of mercy, they are not departed or gone. They were waiting for me when I thought that I just can't go on. And they brought me their comfort, and later they brought me this song. Oh, I hope you run into them, you who've been traveling so long. La più grande delle due sorelle è Angela, Angela Giussani, del 22. È una ragazza intraprendente. La storia di quegli anni, degli anni 20-30, annovera parecchie donne totalmente fuori dalle regole. Angela ha la patente, addirittura ha il brevetto di pilota d'aereo, va a cavallo, scia, sa quattro lingue, è bellissima, lavora come fotomodella, è bellissima anche la sorella che ha sei anni in meno di lei, è Luciana, anche lei viene eletta Miss Sport. Insomma, sono due ragazze che potrebbero avere già un grande successo da quel punto di vista, ma loro non si accontentano, non vogliono puntare sulla bellezza, vengono da una famiglia di imprenditori e quindi in qualche modo le ragazze decidono di intraprendere un'attività in proprio. Ascoltiamo Mirella Risi, che è la collaboratrice della casa editrice Astorina, fondata proprio dalle sorelle Giussani. Negli anni 60 sicuramente erano donne all'avanguardia, erano molto avanti nei pensieri, nel modo d'agire, erano delle donne indipendenti. Diciamo che le donne a quel tempo non eravamo così, con i loro consigli, il loro modo di interagire ancora la mia vita personale, mi hanno fatto diventare una donna forte. Queste due sorelle della Milano Bene, le Giussani, sono molto unite, sono due inseparabili amiche, vanno d'accordo, fanno tutto assieme, sono spensierate di carattere anche durante la guerra, vanno a Cervia sfollate, eppure sono allegre, sono pronte a divertirsi, a trasgredire, fanno un loro personalissimo 68 negli anni 50 e proprio mentre si trovano a Cervia, Angela conosce, ha un flirt con Gino Sansoni, che è un editore d'assalto di Milano, scaltro, che vuole cogliere l'opportunità giusta per fare soldi, magari aggirando un po' la legge e anche la buona fede dei collaboratori, insomma un po' un avventuriero. Bene, per Angela Gino è solo appunto un'avventura passeggera, lui invece si è innamorato di quella bella bionda, torna all'attacco a fine della guerra, insomma un pochino anche per attaccare il cappello. Alla fine riesce a convincere Angela a sposarlo, ma questo matrimonio non durerà molto. Però le sorelle Giussani, grazie a questo scaltro e discutibile giovanotto, vengono comunque introdotte nel mondo dell'editoria. Falco e Gabbiano. E quindi le vite delle sorelle Giussani sembrano apparentemente prendere due strade diverse, perché Angela sposa lo scaltro Gino Sansoni e inizia a collaborare attivamente con lui nella sua casa editrice, la Astoria, presta il volto per pubblicità, copertine, fa anche la redattrice, la giornalista. Luciana invece si diploma alla scuola tedesca e trova un ottimo posto di lavoro alla Folletto, che è la casa di Aspirapolveri, però non è soddisfatta, è un lavoro di transizione, il suo sogno sarebbe lavorare con la sorella, ma non ama molto il cognato, ne riconosce e il genio, come quando lui si inventa la prima cellofanatura per gli allegati delle riviste, o le copertine chiuse, quelle con un lembo più lungo che si incollava sul retro, ha una serie di idee, oppure anche le copertine con una donna nuda che fa da specchio per le allodole, poi dentro invece non c'è niente. Insomma, ascoltiamo Mario Gomboli, sceneggiatore di Diabolica e poi direttore generale della Astorina, che racconta com'era Gino Sansoni. Persona assolutamente nata da un cavallo, simpaticissima, ma sempre sopra le righe, capace di dire furibonde, di scagliare la macchina per scrivere da un capo all'altro della redazione. Pubblicava Forza Milan, perché Gino Sansoni era un milanista sfegatato. Il nome di Ginko, l'ispettore che insegue Diabolica, è poi una deformazione di Gino con più la K di Diabolica. E la cravatta rossonera di Ginko è un anti-omaggio al Milan, perché Ginko è un perdente, infatti pare che Gino Sansoni la cosa non lo divertisse molto. Quando li ho conosciuti ancora avevano delle parvenze di sopportarsi, poi Gino era insopportabile, a parte che correva dietro le donne eccetera eccetera, ma se c'era modo di creare una rissa soprattutto verbale, anche divertente, beh, lui lo faceva. La Angela Giussani non ne poteva più. Insomma, un editore d'assalto, un geniaccio insopportabile, un donnaiolo, un litigioso, e il matrimonio arriva al capolinea. Angela si separa, anche se Gino resterà sempre nella sua vita. Anzi, negli anni dei grandi successi di Diabolik, lei lo manterrà anche, forse perché gli riconosce il merito di averla introdotta nel mondo dell'editoria. Insomma, siamo nel 1960 e lei decide di fondare la sua casa editrice. Non collabora più con Gino, si sono separati. Lui la Astoria e lei fonda la Astorina. E è a questo punto che finalmente può chiamare al suo fianco la sorella Luciana. All'inizio la Astorina pubblica figurine, giochi in busta, poi gli albi OK con le storie di Big Ben, un pugile detective che non ha un grande successo. Il colpo d'ala arriva nel 62. E ascoltiamo il grande giornalista Oreste Del Buono che si occupa del fenomeno di Diabolik. Le sorelle Giussani sono le creatrici di Diabolik, Diabolik o Diabolik perché le edizioni sono varie. Come hanno dichiarato le stesse sorelle Giussani, nacque dopo una lettura di Fantomà, oppure di altri fumetti tipo Rocambole, Fantomà e tutto. Però nacque anche da una specie di passione per un divo del cinema. Quando sono andato a trovare la prima volta le sorelle Giussani, ho visto su una parete un piccolo ritaglio da un giornale con Bob Taylor. Bisogna vedere i due personaggi che animano soprattutto Diabolik, che sono Diabolik e l'ispettore che gli si contrappone, hanno tutte e due, uno in chiave mefistofelica, l'altro in chiave benevola e etica, una rassomiglianza molto forte con Bob Taylor. Sì, Robert Taylor, il divo di Hollywood, il bellone, interprete di capolavori come Ivano Quo Vadis, era un attore molto in voga in quegli anni, quindi le sorelle Giussani se ne innamorano, come molte donne in quei tempi. Angela in prima battuta viene in mente un personaggio, un eroe dei fumetti, visto che lei è comunque un'editrice di fumetti e vuole che abbia le fattezze di Robert Taylor, però essendo una donna estremamente anticonformista non si inventa un eroe positivo, no, lei dà vita a un ladro, a un assassino che è incurante della vita altrui, interessato solamente ai diamanti. Mente di Angela Giussani si affaccia un Robert Taylor in tuta nera, un uomo mascherato bellissimo ma diabolico, da cui il nome. Commette furti efferati, è simpatico perché nell'immaginario collettivo il ladro è sempre un po' il furbo che ottiene facendo poca fatica quello che gli altri impiegano una vita a ottenere. Insomma, non è bello da dire, ma il delinquente, se ha una certa classe, ha sempre un grande fascino. Ascoltiamo Carlo Lucarelli che ci parla proprio di questo tema. L'eroe è sempre stato qualcuno che si riconosce con quelli che sono i valori della società. Diabolik è un cattivo. Diabolik arriva e fa anche lì la vendetta di quella società che nell'Italia degli anni 60 si sente emarginata dalle grandi ricchezze, dal grande boom. Fa quello che magari avrebbero voluto fare tante persone, andare e rubarsi la ricchezza. Nella cronaca nera di quegli anni ci sono i banditi che sono abbastanza particolari, perché sono a metà ancora tra una criminalità che diventerà soprattutto negli anni 70 feroce, cattiva, che ammazza, e ancora una criminalità molto fai da te, molto naif. È una cronaca nera che interessa tantissimo la gente che la sta seguendo, perché evidentemente racconta di un'Italia che è inquieta, che ancora non ha capito cosa sta succedendo. E beh ragazzi, c'è poco da fare, il bandito ha sempre il suo fascino. Banditi che colpiscono l'immaginazione della gente, pensate a Bonnie e Clyde, Butch Cassidy, le grandi rapine ai treni nel Far West, pensiamo a Ocean's Eleven e seguiti con George Clooney, Brad Pitt. Insomma, il fascino del colpo ben assestato che mette a posto per la vita lo sentono tutti, e soprattutto quando c'è da rubare qualcosa comunque a un ricco, insomma, senza frodare un debole. Diabolik arriva con questo suo carico di furbizia, è un concentrato di determinazione, di inventiva, di tecnologia prestata all'atto criminoso. Diventa un successo editoriale immediato. Questo si deve anche a un'altra intuizione che hanno le sorelle Giussani. Una storia deve essere bella da leggere, deve essere appassionante, deve fare paura, ma deve essere anche comoda da leggere. Può sembrare strano, però è così. Angela e Luciana hanno il loro ufficio di Milano vicino alla stazione Cadorna. Ogni giorno vedono passare decine e decine di pendolari. Quindi, insomma, capiscono che la monotonia del tragitto va spezzata con una lettura elettrizzante ma anche comoda. Un fumetto per adulti, sì, però tascabile. E questa è una cosa che per noi è un fatto acquisito, però allora i fumetti tascabili non esistevano. L'Oscar Mondadori stesso arrivò dopo di loro nel 65. Insomma, i fumetti erano sempre albi molto grandi e quindi le sorelle Giussani rivelano anche un intuito imprenditoriale che caratterizza tutte le loro idee e che continuerò a raccontarvi. I'm just a bad, a half-risen son. Won't hurt my head, 'cause you always find me right there in the shade. I can see all the folks, they're laughing at me, but I'm just naturally crazy. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando la genesi di uno dei personaggi più famosi e di maggior successo nella storia del fumetto mondiale, Diabolik, inventato da due sorelle milanesi, due bellissime ragazze della ricca borghesia milanese, Angela e Luciana Giussani, che negli anni 60 realizzano uno dei maggiori successi imprenditoriali dell'epoca. Diabolik, appunto, il ladro efferato, sprezzante della vita altrui, che commette furti rocamboleschi, capace di fughe impossibili, nasce così in maniera quasi inaspettata, diventa immediatamente un successo grandioso, grazie a un mix di storie intriganti, disegni bellissimi, capaci di trasportare il lettore in un mondo fantastico, e anche grazie al formato tascabile, quindi comodo da portarsi dietro. Ascoltiamo Mirella Risi, che è la collaboratrice della casa editrice Astorina, che sottolinea l'immediatezza del successo di Diabolik. Non ci si aspettava comunque un successo così da parte di questa testata, però questo successo commerciale richiedeva un grosso impegno di lavoro, per cui cos'è successo? Che praticamente loro hanno rinunciato alla loro vita privata, era solo vita di lavoro. Lavoravano 7 giorni su 7, sabato, domenica. Ricordo che io arrivavo in ufficio pettinata bene e l'Angela mi diceva: ma come fai, Mirella, a essere così pettinata bene? Che lei non riusciva neanche ad andare dal parrucchiere. Si era perfino presa una parrucca per essere più presentabile. Non avevano tempo, proprio lavoravano giorno e notte. Quando arrivava sabato, qualcuno, domenica, che dovevano ricevere weekend, qualcuno, sì. Praticamente l'Angela si infilava sulla parella. Sì. La parrucca. Beh, insomma, io non ho mai conosciuto una donna che non avesse il tempo per andare dal parrucchiere e passarci parecchie ore al mese. È veramente una grande passione che le distingue, una passione che le due sorelle vivono in simbiosi, come tutto quello che avevano fatto fin da piccole. Luciana, intervistata da Oreste Del Buono, racconta così. Facciamo presso poco tutte e due lo stesso lavoro. Cioè noi inventiamo le storie, ecco, e tutto qui, io ne invento una, lei ne inventa un'altra, poi quella che invento io la legge lei e mi fa tutte le critiche e viceversa, insomma, perché magari una crede di averci messo tutto, no? E invece magari è sfuggito un errore che l'altra vede, ecco, e lavoriamo un po' in equipe. E anche all'inizio era così? Sì, sì, è sempre stato così. E per il disegno? No. No, il disegno, no, abbiamo dei disegnatori, insomma, non, nessuno delle due disegna. No, ma all'inizio ho cominciato lei, io ho cominciato più tardi, e dopo abbiamo cominciato a lavorare in equipe. Beh, è una una bella fantasia, perché il loro Diabolik è un personaggio completo, peraltro ha una biografia molto ricca e articolata che non tutti conoscono. Io per esempio non me la ricordavo, e fin dal primo numero uscito nel 62, nel novembre 62, con il titolo Il Re del Terrore, viene descritto come un ladro spietato e vincente, e un po' alla volta nei vari numeri si scoprono le sue origini. Dunque lui è l'unico sopravvissuto a un naufragio, giunge in fasce sulle coste di un'isola fuori dalle rotte normali. L'isola è il covo del famigerato bandito King, che lo alleva come un figlio, gli insegna le più svariate tecniche criminali, non ha un nome, viene chiamato il ragazzo. Nell'isola c'è una terribile pantera nera chiamata Diabolik, e il ragazzo è affascinato da questa pantera. Quando King uccide la pantera, il ragazzo matura un odio profondo nei confronti del padre adottivo, e quando ha 22 anni lo uccide in una travolgente scena che si svolge proprio davanti alla pantera imbalsamata. Lui si appropria del nome della pantera, fugge dall'isola e diventa Diabolik. A questo punto le sue avventure si spostano in una cittadina immaginaria, Clairville, e poi anche a Genf, come racconta Luciana Giussani. L'ambientazione geografica del vostro personaggio, Clairville, Genf, dove sono? È di fantasia. Noi ci immaginiamo un po' Francia-Inghilterra, ecco, così, Francia soprattutto. La Costa Azzurra? Sì, anche un po' Parigi, perché infatti c'è il fiume a Clairville, e poi questa Genf dovrebbe esserci, Marsiglia, ecco. E le imprese di Diabolik sono strabilianti, lo diventano ancora più dal terzo numero in avanti, quando il ladro incontra una donna destinata a restargli sempre accanto, a diventare la sua fidanzata, la sua complice, la bellissima, affascinante Eva Kent. E per questo personaggio le sorelle si ispirano ancora al mondo del cinema, prendono in prestito il volto, la fisicità della grandissima e bellissima Grace Kelly, quella che poi diventerà la principessa di Monaco. Diabolik e Eva sono ladri sofisticati, hanno un loro codice morale, ma non sono affatto ladri gentiluomini. Se possono, evitano i delitti, magari narcotizzando le loro vittime, facendo ricorso a qualcuna delle diavolerie imparate da Diabolik sull'isola di King. Anche il fatto che Diabolik a un certo punto della storia dice sempre ha la mia stessa corporatura, e si mette la faccia e non si sa come riesce sempre a immedesimarsi in qualcun altro. Bisogna avere anche un po' di fantasia per godersi i fumetti. E poi c'è il grande antagonista che è l'ispettore Ginko, che gli dà la caccia ma non riesce mai a arrestarlo. Ascoltate questa riunione di redazione dalla quale si riconosce la voce di Angela Giussani. L'ispettore Ginko ha scoperto che il signor Meyer, che abita una lussuosa villa e che finora era un uomo insospettato, è Diabolik. Avvisa tutte le macchine della polizia e dice: circondiamo immediatamente la villa perché lì dentro c'è Diabolik. Quindi c'è Diabolik che ha la maschera di plastica. Sì, la maschera di plastica del signor Meyer, e a un certo momento sente, avvicinandosi alla finestra così, si vede tutto circondato, e in quel momento lì si sente perduto, perché irrompe l'ispettore Ginko armato di pistola, spalanca lo studio dove il signor Meyer era seduto alla scrivania e gli dice in alto le mani: Diabolik ti ho scoperto. Diabolik è disarmato e lui deve trovare un sistema per fuggire perché si sente perduto. La situazione qui è drammatica, perché lui è di fronte a un uomo armato. Due uomini normali, uguali, uguali di fronte all'altro, sì, perché sì. Diabolik sappiamo che non è un superuomo, ma è un essere normale, per quanto molto più intelligente. Ginko gli sta alla pari. Sì. Sapete che Ginko è armato e ha circondato la villa di poliziotti. Quindi Diabolik deve fare in modo di disarmarlo in qualche modo. Deve fare in modo di disarmarlo. Adesso noi dobbiamo trovare un'idea, ecco. Deve trovare una trovata geniale in modo da disarmare e poter scappare. Fuggire. Però a questo punto sul momento è preso all'improvviso, però se lui abitava da tempo in quella villa può aver preparato qualcosa prima. Cioè, sì. Siccome lui è sempre sul chi vive, aspetta la polizia a ogni momento, può aver preparato un trabocchetto, non so, che si apra una botola, niente. E vabbè, adesso bisogna andarsi a ribeccare questo numero in cui il signor Meyer scappa via dalla villa, perché mi è rimasta la curiosità addosso, e anche perché lei non vuole la soluzione della botola, che è troppo semplice. Ma come va a finire? qualcosa di un po', insomma, qualcosa di originale, insomma, sì. Normale. No, forse una cosa, insomma, bisognerebbe, se per esempio lui avesse un elettrocalamite di dietro. Un elettrocalamite? Sì, una che attirasse le pistole. Tirasse la pistola di ginco. Sì, sai cosa vuol dire? Forse un campo magnetico, diciamo. Un campo magnetico, una forza. Buono. Quindi allora lì con la pistola in mano, Diaboli si alza, alza le mani, no? E ci può anche dirgli non spara perché lui si arrende. E fa così, fa per alzarsi, per esempio. Un momento, però deve mettere in funzione questa elettrocalamite, perché non è sempre in funzione. No, io direi che lui avesse un bottone a piede. Ma deve essere nascosto, simulato in qualche parte, non so, per esempio. Un pannello, io penso. Alle spalle. Alle spalle, sì. Alle spalle un pannello ha un pedalino. Sì, lui si alza, no? Si sposta e dice hai visto. E intanto schiaccia il bottone e la pistola viene attirata dalla calamita. Angela e Luciana Giussani sono decisamente due anticonformiste, lo sono non solo perché si inventano un personaggio e una serie così lontana dal loro mondo dorato di ragazze benestanti e borghesi, ma anche perché si stupiscono enormemente quando il loro fumetto viene sequestrato perché è ritenuto antisociale. Però dobbiamo ricordarci che siamo nei primi anni 60, insomma la morale comune rigetta un eroe che ruba, uccide, che dorme con la fidanzata senza averla sposata, perché Diabolik e Eva sono due pubblici concubini. Insomma, ascoltiamo Mario Gomboli. Aveva fatto sequestrare un Diabolik perché c'era una donna in costume da bagno in copertina e perché all'interno Diabolik e Eva, mano nella mano, andavano verso un letto matrimoniale. Per inciso, da allora Diabolik e Eva hanno dormito in letti gemelli quasi sempre e non erano sposati. Allora, tutto questo scandalizzava le Giussani, più di quanto Diaboli scandalizzasse le pensanti, perché dicevano non è possibile che uno sia così lontano dal mondo e dalla realtà, non è possibile che nel 1963-64 ci sia ancora qualcuno che ritiene scandaloso il fatto che un uomo e una donna vadano verso un letto matrimoniale mano a mano se non sono stati benedetti da un prete. Sì, ma questa era la becera e bigotta Italia degli inizi degli anni 60, insomma non c'era ancora il divorzio, c'era lo ius corrigendi per il quale il marito poteva menare la moglie, insomma era un'altra Italia. E Diabolik scandalizza, ma tutti lo comprano, anzi dopo il sequestro se ne vendono ancora più copie e le sorelle devono ringraziare il magistrato che fa sequestrare il fumetto. E Diabolik ha un tale successo che diventa oggetto di imitazioni e spesso non all'altezza dell'originale. Nascono i fumetti neri Sadik, Criminal non era male, a me piaceva molto, Satanic, che era un Diabolik donna, Demoniac, insomma tutti più violenti del loro ispiratore, pieni di donnine nude, di torture, di frustate di cadaveri, che piacevano ai ragazzini, io ero tra questi, proprio perché erano trasgressivi, magari venivano comprati anche dai loro padri, non dal mio, però qualcuno li comprava, insomma era un fenomeno sociale, un successo editoriale di grandissima portata. C'è chi pensa che questo genere di letture può ispirare e istigare alla violenza e agli atti criminosi, ma è una sciocchezza, anzi secondo me esorcizza il tema. Ascoltiamo Carlo Lucarelli, che i delinquenti li ha studiati a lungo e conosce le loro fonti di ispirazione. Quella di pensare che il giallo sia criminogeno è una fissazione. Se dovessimo rifarci esclusivamente alla statistica, allora esiste un libro che si trova in una percentuale altissima citato, per esempio, in tutti i deliri dei serial killer che hanno deliri di onnipotenza, ed è la Bibbia. Citano frasi della Bibbia e agiscono perché dicono di averlo letto nella Bibbia. È chiaro che non è vero. Se dovessimo stare a questo principio, la Bibbia è criminogena, ma voglio dire. Eh sì, ci sono fatti di sangue più nella Bibbia che in tutta la letteratura noir, se vogliamo vedere. La Bibbia è un libro veramente cruento, al di là, insomma, ovviamente della valenza religiosa, eccetera. Angela Giussani fa una dichiarazione ufficiale nella quale prende le distanze da questo genere di accuse. Ci hanno accusato che con Diabolik fomentavamo la violenza, il che è addirittura assurdo, perché la violenza, anche gli stessi benpensanti che facevano queste accuse sanno benissimo che origini ha, cioè sono origini sociali, sono origini di miseria, eccetera. Quindi non mi sento neanche di giustificarmi contro queste accuse. Nelle case di qualche bandito sono stati trovati fumetti, perché naturalmente questa gente era latitante o si nascondeva, quindi a un certo punto doveva passare il tempo e avrà comperato anche dei fumetti. Il che però non vuol dire niente, secondo me. Abbiamo dei precedenti, cioè Diaboli non è il primo personaggio negativo, nel senso che il ladro sfugge alla prigione. Abbiamo avuto, da un secolo e mezzo fa, adesso abbiamo avuto una decina di personaggi di questo genere. E non credo che le nazioni, come Fantomas per esempio, che è nato in Francia, possa aver messo nelle sue statistiche che la criminalità è aumentata quando i francesi leggevano Fantomas. Poi abbiamo avuto Rocambole, abbiamo avuto Arsenio Lupin, abbiamo avuto il dottor Mabuse nato in Germania, cioè abbiamo tutta una storia di personaggi del genere che penso che vanno presi allegramente e non parlare di educazione o di altre cose. Da brave anticonformiste, però le sorelle Giussani modificano nel tempo la figura di Diaboli, che è un altro colpo d'ala, perché si staccano dagli imitatori che puntano sempre più sulla morbosità, sulla violenza, sul sadismo, anche su un po' di sesso. Diaboli non uccide più, le sue storie diventano sempre più articolate, le sceneggiature complesse, e intanto la sua storia d'amore con Eva lo rende un uomo fedele, innamorato. Non ci sono più avventure facili, non ci sono donnine discinte al suo seguito, e nei fumetti di Diabolik è la storia che la fa da padrona. Il ladro acquisisce una credibilità che gli consente di trasformarsi quasi in un modello da seguire. Diventa un film del grande Mario Bava, diventa un cartone animato, testimonial di campagne contro l'abbandono degli animali, contro l'alcolismo, si schiera contro la droga, la mafia, sostiene l'emancipazione femminile, diventa oggetto di parodie divertenti come quella famosissima di Johnny Dorelli, Dorelli che arriva la bomba. Angela Giussani muore nell'87 a 65 anni, Luciana le sopravvive 14 anni, muore nel 2001 a 72, dopo aver continuato a portare avanti l'incredibile avventura che aveva iniziato con la sorella 40 anni prima. Oggi Diabolik è arrivato alla rispettabile età di 54 anni, ogni mese regala un'avventura mozzafiato che è degna dello stile e della passione delle sue ineffabili e diaboliche madri. Ci sono storie di persone che hanno dato un colpo d'ala che ha cambiato la loro vita e soprattutto la vita di tante altre persone, come Angela e Luciana Giussani, che con il loro Diabolik hanno interessato e intrigato tante generazioni. Se volete mandarci dei commenti, fatelo, scrivete alla pagina Facebook del Falco il Gabbiano o alla mia, Twitter, il Falco il Gabbiano chiocciola radio24.it. Insomma, se volete mi trovate. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Simona Capodanno.